L'8 dicembre 1075 Papa Gregorio VII tirò una stoccata a Re Enrico IV. In onore della festa dell'Immacolata Concezione, chiese spiegazioni a Enrico riguardo alle sue menzogne e ai suoi reati e pretese che ripulisse la sua condotta attraverso le scuse e il pentimento, altrimenti avrebbe rischiato la scomunica immediata. Nessun papa aveva mai scomunicato un sovrano regnante ed era una minaccia senza precedenti nella politica europea. Enrico rispose con l'unico mezzo che conosceva, la violenza. Ottenne l'aiuto di un rissoso nobile della famiglia romana dei Cenci, che si lasciò facilmente corrompere dal loro tedesco. Costui assoldò mercenari perché si infiltrassero nella funzione della vigilia di Natale a Santa Maria Maggiore a Roma. Quando i fedeli si misero in fila per ricevere la comunione dalle mani del pontefice, i mercenari si fecero avanti e aggredirono il Papa, trascinarono Gregorio sanguinante e privo di sensi fuori dalla cattedrale e lo rinchiusero in una torre che apparteneva ai Cenci. Nessuno avrebbe mai saputo perché Gregorio non era stato ucciso subito dopo il rapimento. Si pensò che nella fretta di mettere in atto quel diabolico piano, gli ordini esatti, cosa fare una volta preso in ostaggio il pontefice, non fossero stati impartiti a dovere. E nessuno degli uomini coinvolti voleva sporcarsi le mani con il sangue del Papa, a meno che il re non lo avesse chiesto e non avesse pagato profumatamente per ottenerlo. Di conseguenza lo tennero prigioniero per una notte in attesa che venisse presa una decisione. Nel frattempo il popolo di Roma era indignato. Lo spargimento di sangue sull'altare e i danni di un Papa che era ancora il favorito del popolo romano scatenò quasi una rivolta la mattina di Natale. La torre fu presa d'assalto dalla folla che liberò il pontefice e cacciò i Cenci dalla città. Papa Gregorio VII tornò nella sua residenza principale al Palazzo del Laterano. Dopo che gli furono medicate le ferite alla testa, chiese carta e penna e scrisse subito alla sua amata rassicurandola sul proprio stato di salute. Matilde cavalcava a rotta di collo insieme a Con per la Toscana diretta a Pisa. La madre si era ammalata in modo grave mentre si occupava di faccende amministrative a Pisa e Matilde voleva a tutti i costi raggiungerla. Mentre cavalcava, pregava che la madre fosse ancora viva e cosciente al suo arrivo. Non poteva sopportare l'idea di perdere Beatrice, ma perderla senza nemmeno avere la possibilità di parlarle un'ultima volta sarebbe stata davvero una cosa insostenibile. Matilde fu sollevata nel vedere che Beatrice era viva, seppure priva di sensi al suo arrivo. Le dissero che la madre perdeva e riprendeva conoscenza con l'alzarsi e l'abbassarsi della febbre. Al momento dormiva, il che diede a Matilde il tempo di valutare altre questioni che le gravavano sul cuore. Aveva ricevuto il messaggio di Gregorio non appena era partita per Pisa, quello in cui le assicurava che era sano e salvo, ma descriveva in dettaglio il suo violento rapimento. Ah, quanto avrebbe voluto andare da lui in quel momento. Aveva bisogno di vederlo e di toccarlo per essere sicura che tutto sarebbe andato bene, ma non era possibile con la madre in quelle condizioni. Gli scrisse una lettera in forma pubblica per dovuta precauzione in cui esprimeva il suo amore usando termini che non l'avrebbero fatta incappare in una condanna, qualora la lettera fosse stata letta da legati papali o peggio da intercettatori nemici. Mio diletto Santo Padre, sono molto addolorata nell'apprendere della sofferenza che vi è stata inflitta, ma ringrazio Dio per aver salvato il suo unico vero apostolo scelto. Sappiate che farei qualunque cosa per soddisfare i vostri bisogni a Roma, come vostra diletta figlia e servitrice, ma devo restare al fianco di mia madre gravemente inferma. Vi supplico di intercedere per lei con Dio tramite le vostre sante preghiere. Anche se sono separata da voi dalla distanza, sappiate questo: né tribolazione, né angoscia, né inedia, né pericolo, né persecuzione, né spade, né morte, né principati, né virtù mi allontaneranno mai dal mio amore per San Pietro, eternamente vostra. Gregorio avrebbe saputo come leggere fra le righe, perché la lettera era scritta nel loro codice personale. Si riferiva a se stessa come alla sua diletta e a lui come al suo diletto, ma scegliendo le frasi con cura in modo da non correre rischi. Perciò, anche se stava rievocando il verso del Cantico dei Cantici, il mio diletto è per me e io per lui, non sarebbe parso inappropriato a un occhio esterno che vi avrebbe visto solo un'amorevole figlia della Chiesa che esprimeva la propria devozione al Santo Padre. La sua fervida dichiarazione finale di non separarsi mai dall'amore di San Pietro si riferiva a un insegnamento chiave del libro dell'amore. I veri amati non vengono separati da nulla che appartenga a questo mondo e a questo tempo, perché le loro anime sono legate per l'eternità. Nel ricevere l'appassionata lettera di Matilde, Gregorio, triste e tormentato, ne spedì una anche lui. Forse la ferita alla testa che aveva subito di recente lo aveva reso sconsiderato, forse era semplicemente stufo di fingere, ma quando scrisse alla sua amata, si dimenticò per una volta che lui era il papa e lei era sposata con il duca di Lorena. Scrisse una lettera bella e appassionata in cui le diceva quanto desiderasse che entrambi potessero disfarsi delle loro attuali responsabilità e fuggire insieme in un luogo in cui non fossero continuamente sotto esame. Chiuse la lettera con i versi del Cantico dei Cantici, che avrebbero tormentato entrambi per tutto l'anno successivo, parole che avrebbero potuto condannarli tutti e due se fossero capitate nelle mani sbagliate. Aspetterò dolente finché non ti rivedrò in carne e ossa, mia diletta, finché non ti aprirai di nuovo a me sapendo che è tutto troppo fugace, finché non potremo stare insieme per l'eternità, dove tu sarai sempre al mio fianco, agli occhi di Dio, ti aspetterò. Papa Gregorio VII era molto attento nel selezionare i suoi messaggeri, specialmente quelli che portavano la sua corrispondenza in Toscana. Quello che non poteva sapere era che il suo messo più fidato sarebbe caduto in una trappola tesa dal duca di Lorena e a causa di quel messaggio la sua gola sarebbe stata tagliata. L'appassionata lettera del pontefice non sarebbe mai giunta nelle mani del suo amore eterno, sarebbe stata consegnata invece al marito. Con era certo, e Matilde concordava con lui, che Goffredo avesse avuto la sua parte nel tentato omicidio del Papa, anche se non era stato lui la mente direttiva. È ovvio che è stato Goffredo. Matilde esternò la sua rabbia e la sua frustrazione, ma grazie a Dio è stato un fallimento, Con. Che cosa avrei fatto altrimenti? Perdere il mio Gregorio e mia madre in un colpo solo, non sarei sopravvissuta a un simile dolore. Ma non è andata così, Matilde. Gregorio è salvo. Dio si prende cura dei suoi figli. Annuì, troppo sopraffatta dalle circostanze, per rendersi conto che Con aveva appena citato la dottrina dell'ordine, perché malgrado il salvataggio di Gregorio e i palesi indizi che accusavano il re e il suo duca, Enrico non demordeva. Non aveva abbastanza vergogna per implorare perdono per il tentato omicidio, anzi, dichiarò che la corte reale tedesca intendeva mettere sotto processo il Papa e dimostrare ai sovrani d'Europa che doveva essere deposto perché era un criminale. Fu fissata una data per il processo, il 24 gennaio 1076, e i nobili di tutta Europa furono invitati ad assistervi nella città tedesca di Worms, dove si sarebbero vendicati di quel Papa fattosi dal nulla che si definiva unico governatore del mondo. Il Sinodo di Worms, Germania, 24 gennaio 1076. I vescovi della Germania si erano pronunciati. Gregorio VII fu accusato di molteplici reati ai danni degli abitanti dell'Europa e del loro legittimo sovrano e furono frettolosamente raccolte e firmate alcune petizioni per dare fondamento legale alle accuse. Utilizzarono la legge stessa di Gregorio come prova chiave contro di lui. Aveva usurpato il trono di Pietro con un'elezione illegale. Il titolo non gli era stato conferito dal collegio cardinalizio e aveva violato il suo stesso decreto elettorale. Fu condannato per la sua arroganza nel tentare di spogliare i vescovi dei loro diritti e della loro influenza e di consacrarsi come unico detentore del potere spirituale. Nel bel mezzo di un'accalorata presentazione di prove al cospetto del re, il gobbo duca di Lorena irruppe nell'aula con il volto paonazzo, sventolando un documento che stringeva nel pugno. Desidero aggiungere un ulteriore capo d'accusa contro questo demonio che ha ingannato l'Europa intera e si fa chiamare Papa. Enrico IV era appollaiato sul trono e si sentiva molto pieno di sé. Gli piacevano quel genere di disordini e di drammi. E sapeva che quella che Goffredo stava per presentare sarebbe stata la prova più dolce e succulenta di tutte quelle esaminate fino ad allora. Venite avanti, mio buon duca. Avete una lamentela personale nei confronti dell'usurpatore papale, mi dicono. È così, vostra grazia. Pronunciate dunque, costi quel che costi, la vostra accusa davanti a questo sinodo. Voglio accusare quest'uomo di aver commesso adulterio. La voce tormentata del gobbo si alzò per l'indignazione, echeggiando fra le pareti di pietra della sala del concilio. Raggiunse un crescendo con l'ultima enfatica affermazione: con mia moglie! Nella sala scoppiò immediatamente il caos. Anche se le voci sulla relazione di Gregorio e Matilde erano note a tutti i presenti, nessuno aveva previsto che un'accusa ufficiale di adulterio venisse lanciata contro di loro proprio dal marito della donna. E quale prova avete dell'ingiustizia che avreste subito, signor Duca? Goffredo mostrò il documento. Questa lettera, scritta dalla mano del falso pontefice, è stata inviata a mia moglie il giorno di Santo Stefano, è infarcita delle più vili espressioni e conferma la loro unione perversa e lussuriosa. Enrico si leccò le labbra smanioso mentre dava l'ordine. Leggetela! Goffredo avvampò per l'imbarazzo. Se già era umiliante ammettere di essere stato tradito davanti a tutti i suoi pari, dare pubblica lettura della corrispondenza dell'amante di sua moglie sarebbe stato insopportabile. Preferirei metterla fra le prove e lasciare che i membri del concilio ne prendano visione in privato. Il re allungò una mano, strappandogli la lettera. Allora sarò io a procedere. Enrico provò un immenso piacere nel leggere la corrispondenza di Gregorio e Matilde al concilio. Si fermò a una frase, assaporandola prima di pronunciarla con il tono più lascivo possibile. Aspetterò dolente finché non ti rivedrò in carne e ossa, mia diletta, finché non ti aprirai di nuovo a me. Nella sala calò il silenzio, che fu spezzato infine dal re. Ebbene, mio caro Goffredo, mi dispiace che vi siate trovato davanti alla spiacevole verità che vostra moglie è una sgualdrina. Ma vi sono grato per aver mostrato questa prova per il bene di tutta l'Europa. I presenti sono tutti d'accordo sul fatto che questa missiva, insieme ai resoconti che molti di noi hanno ricevuto sugli empi rapporti carnali tra il falso pontefice e la moglie fedifraga del qui presente Goffredo il Gobbo, costituisce prova sufficiente di un comportamento criminale? Se non vi sono obiezioni, scriverò dunque nella sentenza ufficiale che Papa Gregorio VII e Matilde, contessa di Canossa, sono entrambi accusati di adulterio. La sentenza ufficiale che fu recapitata a Gregorio recitava: Avete ammorbato la Chiesa con il tanfo della più grave fra tutte le accuse, quella di aver convissuto more uxorio con una donna che è moglie di un altro. Enrico non si fermò lì, diede libero sfogo alla sua misoginia, condannando la stima di Gregorio per le donne in generale. Siamo convinti e abbiamo vergogna di voi e della Chiesa che tutti i vostri decreti siano stati messi in moto da donne, cosicché l'intera Chiesa è ormai amministrata da esse. Il fatto che Gregorio avesse avuto spesso incontri non solo con Matilde, ma anche con la sua saggia ed esperta madre, aveva scatenato l'ira di numerosi ecclesiastici, i quali ritenevano che l'apostolo Paolo non fosse mai stato tanto ispirato da Dio come quando aveva scritto la prima epistola a Timoteo, quella che diceva: Non concedo a nessuna donna di insegnare né di dettare legge all'uomo, piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo. Anche la madre di Enrico, ormai sua acerrima nemica, era consigliera e alleata di Gregorio. Il re si riferiva a queste donne come alla blasfema trinità di Gregorio e fu in definitiva la presentazione di questa prova, ossia che il Papa era costantemente influenzato dalle donne a convincere gli ultimi vescovi a firmare il decreto di deposizione. Il Consiglio delle donne nelle faccende di Stato era giudicato ancor più scandaloso e imperdonabile dell'adulterio. Enrico sottoscrisse tutte le accuse, oltre alle dichiarazioni che decretavano che Gregorio era stato deposto dalla carica di pontefice e doveva dimettersi, con quella che sarebbe diventata una famigerata firma. Io, Enrico, re non per usurpazione ma per pio ordine divino a Ildebrando di Soana, che non è più papa ma un falso monaco. Io sono Enrico, re per grazia di Dio, e con tutti i miei vescovi vi dico: dimettetevi e siate dannato per tutti i secoli dei secoli. Ildebrando di Soana non era diventato il più potente papa della storia, arrendendosi al volere di uomini come quello. Sapeva cosa si tramava a Worms, ma decise di far finta di niente finché i vescovi tedeschi non avessero presentato ufficialmente le accuse. Questi decisero di farlo nel terzo sinodo del suo papato, quello del febbraio 1076, a cui parteciparono 200 vescovi e vari nobili provenienti da tutte le zone della Francia e dell'Italia. Nessuno dei vescovi tedeschi ebbe il coraggio o l'audacia di prendervi parte e di presentare quelle accuse di persona. Toccò a un prete incapace, che probabilmente aveva scelto la paglia più corta, presentare la lettera al Papa. Egli informò il concilio in modo grossolano: il re e i vescovi vi ordinano di lasciare questo trono di cui non siete degno. Gregorio, così esperto nel recitare il ruolo del Papa, manifestò la sua compassione per il povero uomo che evidentemente era malinformato e aveva lo sfortunato destino di dover fare quelle ridicole dichiarazioni contro il pontefice. Fece seguire alle accuse un'eloquente dissertazione e un'elegante lettura delle scritture, rendendo chiaro a tutti i presenti che era proprio l'eccezionale guida che credevano che fosse. Alla fine della raffinata esibizione di Gregorio, il prete messaggero era ridotto a un mucchietto di ossa tremanti. Per la paura di aver scatenato l'indignazione dei vescovi presenti che appoggiarono il loro papa senza fare obiezioni, fu deciso all'unanimità che non c'erano alternative alla scomunica di Enrico IV, il re di Germania. Il Papa aspettò fino al 22 febbraio in modo da poter aggiungere con tutto il suo peso la data, il giorno della festa di San Pietro, alla sua proclamazione. Privo re Enrico, figlio dell'imperatore Enrico, che si è ribellato alla Chiesa con inaudita audacia del governo dei regni di Germania e d'Italia e libero tutti i cristiani da ogni forma di devozione a lui promessa e proibisco inoltre a chiunque di servirlo come re. Per la prima volta nella storia, un'ufficiale sentenza di anatema era stata imposta a un sovrano regnante e legittimamente ordinato. Ebbe ripercussioni in tutto il mondo cristiano. Adesso era solo questione di attendere per vedere chi aveva il potere più grande, il re che aveva deposto il papa o il papa che aveva scomunicato il re. E c'era un fattore ancora più interessante e cruciale nella determinazione dell'esito: le terre e i possedimenti che separavano quei due acerrimi nemici e avrebbero deciso la vittoria militare strategica, sebbene appartenessero dal punto di vista tecnico al duca Goffredo di Lorena, erano interamente sotto il controllo di Matilde di Toscana.